Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, ho ascoltato attentamente la lettera di quel ragazzo albanese pentito di aver fatto una scelta di vita molti anni fa. Caro ragazzo albanese, sappi che io sono italiana, calabrese, e che partecipo alla tua delusione. Anch'io sono fortemente convinta che questo paese non meriti la brava gente che viene da lontano e lavora e produce per noi e che ci garantirà la pensione un giorno. Hai ragione quando dici che questo paese è destinato a gestire sempre di più l'emergenza, l'immigrazione clandestina, l'immigrazione anche di bassa qualità, perché non è un paese ospitale né lungimirante. Siamo abituati a vedere il dito che indica la luna e non la luna. Da un mese e mezzo siamo alle prese con una burocrazia lenta e impreparata che manda allo sbaraglio onesti lavoratori che chiedono il rilascio di una carta di soggiorno. In casa sono piena di scartoffie inutili, ma che vuoi farci? Qualche giorno fa ascoltavo la lettera delle mamme della scuola Carlo Pisacane di Roma, stanche di non poter far vivere ai loro figli la loro italianità. Se qualcuno mi spiega cos'è questa italianità, lo ringrazierò per il resto della vita. Per me Italia sono i racconti di guerra, di resistenza, di rinascita di questo paese piegato in due da due guerre mondiali, è la Costituzione, è il Roma con cui mio nonno sbarcò ad Halifax. E queste cose esistono anche se il mio vicino di casa è marocchino, perché nessuno me le può portare via. Io mi auguro, per contro, che i miei figli siano cittadini del mondo, che sappiano vivere insieme a ragazzi provenienti da tutto il mondo, che siano loro stessi ragazzi in giro per il mondo, in grado di contaminare culturalmente le loro amicizie straniere. Mio figlio andrà in prima elementare il prossimo anno. Mi auguro invece che capiti in una classe multietnica, dove bambini di altre culture e altre religioni possano esprimersi e contaminarlo con la loro diversità. Mi auguro che capiti in una classe in cui ci siano bambini che, affrontando con le loro famiglie i disagi della lontananza dal paese di provenienza, abbiano sicuramente più mordente, più voglia di riscatto sociale e provengano da famiglie più istruite di quelle da noi genitori italiani rappresentate. Da questi compagni di classe mio figlio potrà acquistare una grande voglia di studiare e di essere rispettoso delle regole scolastiche e degli insegnanti. Non ne voglio bambini italiani. Mio figlio non avrà niente da apprendere dai suoi simili che vivono in famiglie in cui si parla di Roma e Lazio e Grande Fratello e vita in diretta. Preferisco, scusatemi, lo Sri Lanka, la Russia, il Pakistan, le preghiere alla moschea o alla sinagoga, le contemplazioni di Buddha o le regole di Confucio. Sono consapevole delle difficoltà e delle emarginazioni, ma nessuno è emarginato per vocazione, semmai viene emarginato dalla collettività. Se questo paese riesce a capire una cosa così semplice, allora l'immigrazione sarà una risorsa, un'opportunità, altrimenti ci dovremo tenere i rumeni ubriachi, gli incidenti, gli stupri, la balordaggine, le marginalità e dovremo conviverci da uomini lupi verso altri uomini lupi, i barbari, tutti. Rosanna Michela. Ho ascoltato la lettera del signor Miri. Una bella lettera, se non fosse per il fatto che, purtroppo, le difficoltà che l'extracomunitario trova per cause burocratiche sono simili a quelle che trova lo stesso italiano. Per quanto riguarda le persone clandestine, è palese che in Italia si è parlato tanto di come fare per non accettarle o accettarle, e la soluzione finora proposta è stata quella di consegnare un foglio di invito a rientrare nel proprio paese. Giusto o sbagliato che sia, l'Italia è un paese pieno di regole, regole rispettate dagli onesti e impunemente eluse dai disonesti. Così, l'extracomunitario in regola passa difficoltà e perdite di tempo per ottemperare agli impegni burocratici, mentre il clandestino riceve il foglietto di espulsione e poi se ne esce tranquillamente dalla questura, con la carta igienica offerta dallo Stato italiano. Così, l'italiano onesto, per una qualsiasi operazione, deve correre tra gli innumerevoli uffici e deve impegnare molto tempo per ricercare documenti richiesti. Il criminale, invece, ovviamente falsificando, prepara comodamente tutta la documentazione che i vari uffici pubblici richiedono. Così, i vari documenti per antimafia e antiriciclaggio fanno impazzire l'onesto, mentre il disonesto è sicuro di poter consegnare quanto gli viene chiesto, senza ricerche, code agli sportelli e quant'altro. Egregio signor Miri, non sono gli extracomunitari istruiti, come dice lei, che non verranno più in Italia. Sono gli italiani che ormai da molti anni stanno fuggendo dall'Italia. Di questo mi dispiaccio, ma è una constatazione. L'esasperazione ha superato il limite di sopportazione. Stefano. Vorrei replicare alla lettera del signor Miri che è stata letta in trasmissione. Il signor Miri ha detto che dopo aver lasciato l'Albania si è trasferito a Trieste dove vive. L'Italia non gli piace più e nulla gli vieta, dico io, di tornarsene al suo paese. Per quanto riguarda la sua affermazione che con la nostra xenofobia ci dovremmo accontentare per il futuro di un'immigrazione di bassi cervelli, non mi sembra che dal 1991 ad oggi siano arrivati dei galantuomini da Lampedusa, Albania e Romania. Così com'è l'Italia, non piace neanche a tanti italiani che non hanno piacere di integrarsi con rom, magrebini e via discorrendo. Gloria. Mi riferisco alla notizia dello stupro a cui avrebbe partecipato un ragazzino di 13 anni e mi domando perché ci si stia interrogando sulla possibilità di abbassare l'età di punibilità anziché pensare di punire i genitori per il fatto di non essersene curati adeguatamente. Ritengo anche che se le pene fossero di tipo pecuniario e se fossero molto gravose, le famiglie si responsabilizzerebbero immediatamente. Raffaella. Vi scrivo dall'Olanda. I papi e i Berlusconi sono così tristi di non aver potuto salvare Eluana. Quando 6 milioni di ebrei si facevano ammazzare dai nazisti, il Vaticano taceva. Quando gli ebrei uccidono il popolo palestinese, i Berlusconi e i Vaticani non dicono niente. Quando gli americani vanno ad aggredire gli iracheni e li uccidono, Berlusconi segue come un cagnolino. Quante persone e quanti bambini hanno ucciso col silenzio? Oggi un bambino muore ogni 3 secondi. Chi ne sta parlando? Se qualcuno riuscirà a utilizzare l'energia delle chiacchiere, l'Italia sarà il paese più ricco del mondo, dopo il Vaticano. Dominique. E ora va in onda lo sciacallaggio. Questi ministri e ministrucoli, questi politici e politicanti o politucoli, hanno avuto anni e anni per decidere. Meditatamente, senza l'incalzare dell'ennesima tragedia annunciata, e non hanno fatto nulla. Ho avuto la fortuna di accudire mia nonna, malata di Alzheimer, negli ultimi mesi di vita. Gli ultimi 6 in particolare, fatti di piaghe, rantoli di dolore a ogni movimento fattole fare, quasi a ogni carezza, a ogni cura datale per lenire le piaghe da decubito. Mesi fatti di sondini, di iniezioni di cibo, che di cibo, almeno secondo quello che intendo io, avevano ben poco. Di soluzioni fisiologiche per lavare il sondino nasogastrico, onde evitarne l'ostruzione. Forse si sarebbero trovate le cure. Non le hanno trovate. Mia nonna è morta il 31 dicembre 1999. Di vita, negli ultimi mesi, non ne ha praticamente avuta. Ad oggi le cure non ci sono. Ad oggi è indubbio che per 6 mesi si è protratta una vita che di naturale ormai non aveva più nulla, ma le cui sofferenze atroci erano ben impresse sul viso di mia nonna, anche dopo la morte, che non le ha ridato serenità. Il dolore e il vuoto che ha comunque lasciato nulla hanno a che fare con la liberazione da un fardello cui molti accennano, quale motivo per chiedere la sospensione di qualsiasi atto non naturale per protrarre la vita. Mia nonna non ha potuto scegliere. Avrei voluto ricordarla piena di vita, ma la devo ricordare come un contenitore di carne e ossa, pesava 30 kg al momento della morte, incapace di comunicare se non con lamenti, rantoli e poco altro. Io voglio poter scegliere come spegnere la mia esistenza. Voglio poter decidere di non passare oltre in quel modo che di onorevole ha veramente ben poco, se non nulla. Di onorevole hanno invece molto le persone che si fanno carico di tutto quello che sta attorno in un caso o nell'altro. Chi vuole protrarre la propria esistenza oltre quello che alcuni ritengono il dovuto, lo faccia pure, ma non lo imponga a me. Questa legge ora va fermata e va introdotto finalmente il testamento biologico in modo definitivo. Ma sono sicuro che la viltà di chi ha creato queste condizioni, ovvero i nostri politici, tanto di destra quanto di sinistra, avrà il sopravvento e nessuna decisione verrà più presa sino al prossimo caso. Invidio chi può decidere di lasciare questo paese senza problemi dall'oggi al domani. Disgraziatamente io dovrò rimanere qua a combattere. Alessandro, Senigallia. Caro direttore, vorrei rivolgere un fortissimo sentimento di commozione e di grande partecipazione al dolore che sta vivendo Beppino Englaro, al quale sono particolarmente vicina, perché in parte mi sono trovata ad affrontare anch'io quel calvario di assistenza ad un malato ormai destinato a sopravvivere solo tramite accanimento terapeutico. L'uomo che aveva saputo riportare me ad una vita normale, dopo che il destino mi aveva programmato un'esistenza di handicappata fisica, ha dovuto sopportare una malattia che progressivamente, dopo alcuni anni, lo aveva trasformato da essere umano a corpo deforme, oltretutto costretto a ricorrere agli oppiacei praticamente senza soluzione di continuità, pur di frenare i momenti peggiori di quel male che ormai lo stava divorando. Quindi posso giustificare senza remore la decisione del signor Englaro di porre un termine allo stato vegetativo della sua figliola, tanto più che a varie riprese aveva cercato un minimo di collaborazione da parte delle strutture pubbliche, che ovviamente lo hanno lasciato senza assistenza e col fardello della sua tragedia da gestire in proprio, esattamente come ho potuto constatare io, che quando richiesi un minimo di assistenza domiciliare per mio marito, mi sentii rispondere di inserirmi in una lista d'attesa di qualche mese. Ora le istituzioni stanno accapigliandosi per cercare una soluzione al problema delle cure per i malati in stato vegetativo o terminale, e certamente sarà un percorso pieno di incertezze e ostacoli. Ma in tutto questo, credo che vada salvaguardata soprattutto la dignità della persona e lo strazio dei familiari che ne prendono cura. E in ogni caso, se ne faccia un uso così spettacolarizzato come per la figliola di Beppino Englaro, al quale rivolgo di nuovo un pensiero di partecipazione sincera al suo dolore. Stefania. Desidero solamente esprimere la mia perplessità nei confronti di Beppino Englaro, povera Eluana, un padre che invece di starle vicino con amore, gira nei salotti televisivi e pubblica un libro. Ma forse non capisco, ma ho lavorato per un anno della mia vita al Cottolengo e per fortuna ho visto comprensione, amore, gioia, silenzio e servizio. Silvana. Carissimo direttore, le scrivo per sottoporle alcune considerazioni in merito al pacchetto sicurezza. Da quanto sono riuscito a comprendere, l'argomento in questione è la sicurezza pubblica, ovvero la tutela dei cittadini. Se i dati pubblicati sui decessi avvenuti in Italia a seguito di omicidi, infortuni sul lavoro e incidenti stradali non sono errati, abbiamo il doppio di probabilità di incappare in un infortunio mortale rispetto a un omicidio. E le probabilità diventano 10 volte maggiori se si prende in esame un incidente stradale. Sempre se i dati sono corretti, gli interventi del pacchetto sicurezza sono finalizzati alla prevenzione della causa delle morti premature dei nostri concittadini, pari al 7,7% degli eventi sopracitati. Questo non mi sembra un approccio analitico, ma emozionale, senza voler pensare che si tratti solo di un diversivo elettorale utile alla raccolta di un consenso e di voti da parte dei nostri rappresentanti politici. Per quanto riguarda la possibilità data ai medici di denunciare i clandestini, mi vedo contrario alla decisione della denuncia, per ragioni etiche e per la necessità di poter mappare, censire e combattere eventuali malattie, che potrebbero essere pericolose per l'intera collettività se non curate. Il problema è che la legge in questione non c'è. Non si può dare discrezione al medico. Non sono i cittadini che devono decidere invece e per conto di chi è preposto dalla Costituzione. Mi sembra troppo facile questo non decidere. Lava le coscienze leggere, accontenta e scontenta tutti palesando una triste mancanza di autorevolezza da parte dei nostri rappresentanti. Preferisco rispettare una legge che posso non condividere piuttosto che trovarmi con il cerino acceso in mano dopo aver eletto il fuochista che dovrebbe maneggiarlo per me. A questo punto sarebbe meglio ricorrere al referendum se non si riesce a legiferare. Cordialmente, Stephen. Caro Stephen, sono d'accordo sul fatto che i temi della sicurezza e della lotta alla criminalità sono spesso presentati più per finalità politiche che per una vera volontà di affrontare questi problemi in tutta la loro dimensione. Ma c'è un aspetto della sua lettera che vorrei sottolineare: la necessità di impegnarsi sempre di più sugli altri due fronti che mettono a repentaglio la vita delle persone: gli infortuni sul lavoro e gli incidenti stradali. Non si tratta, tuttavia, di fare una graduatoria tra i diversi pericoli a cui va incontro ogni cittadino. Si tratta di lottare con tutti i mezzi, con un impegno di base che deve essere sempre più forte, quello dell'educazione e della prevenzione. È un impegno che su tutti i fronti deve partire dalla scuola. È una questione di comportamenti e di responsabilità verso gli altri, ma anche e forse soprattutto verso se stessi. Perché sulle strade si assiste spesso a comportamenti pericolosi, a sorpassi azzardati, a vere e proprie corse tra le strade delle città, il mancato rispetto di semafori e strisce pedonali. Potrebbe essere solo un problema di buona, anzi di cattiva educazione, ma senza dimenticare che troppo facilmente è in gioco la vita umana.